già, forse in mezzo ai fiori, tra gli alberi chissà. Lo sguardo deciso, le ali colorate, un viso narciso, tra foglie appena nate. E da fiore a fiore, le ali senza età, portano il tuo sogno, libertà. Sei distratta, non ci credi, il tempo parlerà. È distorto, non lo vedi, il sole tornerà, ed il ghiaccio dell'inverno acqua si farà. Il ghiaccio dell'inverno acqua si fa.